www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. Fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli la temperatura si è di nuovo assestata sui 38 gradi, Kappa e Drago stanno coi piedi a mollo. Vabbè, Drago, non sarà come stare in piscina, però non è male. Beh, dai, la piscina ti rinfresca tutto il corpo. Qui rinfreschiamo solo i piedi. Vabbè, ma l'importante è tenere fresche le estremità. Sì, come mani e piedi, lo sanno tutti, tutto il resto è relativo. Sì, ma allora perché le hanno inventate le piscine? Se bastava avere una bacinella d'acqua fredda, ognuno si compra per il una. Nuoto, Drago, per il nuoto, non certo per rinfrescarsi. Le hanno inventate per nuotare. Però, Kappa, questo caldo da dove arriva? Arriva adesso? Dal fatto che le unità di sicurezza hanno scoperto il sabotaggio che abbiamo fatto. Il ponticello della caldaia, quindi l'hanno rimessa in funzione e il caldo arriva da lì. Sì, vabbè, però rischiamo la disidratazione così, Rischiassimo solo quello. Cos'altro rischiamo, dai? Beh, dunque, vediamo. L'influenza aviaria, il colera, il tifo, lo scorbuto, il vaiolo, la cagarella, la pertosse. Quella l'ho già fatta, non c'è vabbè, problema. Ma vedi, tossisci ancora. Beh, quindi... ma questa è tosse da sigaretta di paglia, no? Da pertosse, Io la pertosse l'ho fatta quando ero ancora piccino. Ho la pertosse. Il medico ordinò ai miei genitori di portarmi in montagna. Solo che all'epoca non era come adesso. E andare in montagna era una gran menata, perché la giardinetta di mio padre non aveva la prima ridotta e quindi su dalle salite di montagna non poteva andare. Scusa, all'epoca quando? Di che anni parli? Erano i tardi anni 60. E io, con la mia pertosse, fui lasciato a languire in un appartamento di città davanti a un ventilatore. Quella era l'idea di montagna che avevano i miei. Un ventilatore e il disco di Tommy in sottofondo. E poi com'è finita? Broncopolmonite e rischio di passaggio a miglior vita. Sulle note, però, della più bella musica di tutti i tempi. La fabbrica di polli. Tommy Daly Who, È un classico del 69. 69. Sì, ma 69 come anno, Tarek, ma cosa vai a pensare? I Who, Tarek. Loro hanno portato il rock a un livello di classicità. Non più la musica per gli ignoranti selvaggi, ma per gente intellettuale. Perché il chitarrista degli Who, quello col nasone, no? Pete Townsend. Lui era intellettuale, Adesso è anche un po' sordo ed è stato anche accusato di pedofilia, Che poi sono tutte male, Però è un intellettuale. Scrive racconti, saggi, poesie. Un intellettuale. Come te, Tarek. Proprio come te. Io sono Alberone, lo psicologo dei polli, e scrivo tanti libri per darvi dei consigli. L'amore non è amore se non è litigarello. La vita non è vita se non ti senti bello. E la felicità è proprio tutta qua. Chi chiedete un'opinione allo psicologo dei polli. La vendono tanto al chilo sulle spiagge degli atolli. E mentre vi abbronzate sotto il solleone, ecco la soluzione all'ombra di Alberone. La fabbrica di polli. Salve, sono il confessionale elettrico della cappella di San Gallo. Glorio nell'alto dei Cerion. Nel terzo libro dei cereali Kellogg's si legge: nello spazio tra l'isola centrale del paradiso e il più interno dei circuiti planetari di Avona sono situati tre circuiti minori di sfere speciali. Il circuito più interno è costituito dalle sette sfere segrete del Padre Universale. Il secondo gruppo è composto dai sette mondi luminosi del Figlio Eterno. Nel più esterno vi sono le sette immense sfere dello Spirito Infinito, i mondi della sede amministrativa dei sette spiriti maestri. Le sette sfere segrete del Padre Universale che circolano intorno al paradiso in stretta vicinanza dell'isola eterna riflettono altamente la luminosità spirituale del fulgore centrale delle deità eterne, diffondendo questa luce di gloria divina in tutto il paradiso e anche sfera sui sette circuiti di Avona. Meditate su questo pensiero cereale. Meditate. Pronto? Pronto? Direttore Valtania? Sono di nuovo il pollo in sbattimento. Senta, visto che siamo entrati in un clima di amicizia, di simpatia reciproca, se posso permettermi. Prego. Lei non riuscirebbe per caso a infilarmi in qualche ufficio lì nella fabbrica? Magari di fianco al suo, perché sa, io ho bisogno di un'entrata fissa, di avere un po' di stabilità. E sa che io sono un volta gabbana e anche traditore, eh? E queste sarebbero le credenziali. Eh sì, e questo è il mio curriculum. E nella fabbrica mi sono salvato grazie a questo io, eh. Ma è per questo, siccome hai delle caratteristiche così buone per sopravvivere nella fabbrica, non vorrei estrarti dal tuo ambiente naturale per portarti in un altro nel quale magari è necessario essere fedeli, rispettare i patti. Ah, ma io sarei volta gabbana esclusivamente a suo vantaggio, eh? Perché sono volta gabbana, però lo faccio solo per un committente, eh? Questa è una cosa che trascende Aristotele. Qui andiamo deridianamente a un decostruttivismo. Il volta gabbana che non, del quale ci si può fidare. Solo che io ho capito solo volta gabbana nell'ultima frase. Sai, fabbrica è già tanto conoscere Pomponazzi e Cremonini. Io mi è sfuggito qualcosa. No, l'itinerario è la critica radicale alla... all'ontologia che viene fatta dal post-strutturalismo sostanzialmente, che ha in Derrida il maggiore esponente. Beh, certo, questo è chiaro a qualunque pollo in sbattimento. Senta, io la ringrazio molto, mi ha fatto piacere questo... Ma figurarsi, quando vuole mi chiama e così conferma la sua fiducia nel fatto che la fabbrica è la rappresentazione perfetta del mondo. La fabbrica è un luogo cosmogonico, è la rappresentazione del mondo. Adesso purtroppo però mi stanno chiamando e quindi la ci risentiamo. E la saluto. Arrivederci. Grazie ancora, arrivederci. Ma sto direttore qui non dice mai né sì né no. Sembra diventato improvvisamente un cinese. Che cosa succederà adesso? Il direttore Balzania accetterà di assumere il pollo in sbattimento nella grande azienda con il ruolo di volta gabbana affidabile? E se sì, Jacques Derrida si rivolterà nella tomba? Questo è chiaro a qualunque pollo in sbattimento. Lo saprete certamente, ma a sorpresa, non domani, bensì lunedì, perché domani la fabbrica di polli osserva un turno di riposo. Puntuali quindi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo post-strutturalistico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi.